Dietro la notizia di Gianfranco Fabi. Buongiorno, bentornati ai nostri ascoltatori. Parliamo anche oggi del decreto anticrisi del governo, della crisi finanziaria, delle prospettive per l'economia italiana. Lo facciamo con Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore. Buongiorno Meazza. Buongiorno a voi. Alessandro Platerotti, anche egli caporedattore per la finanza del Sole 24 Ore, ci raggiungerà tra poco. Mauro Meazza e Alessandro Platerotti hanno firmato oggi l'editoriale, appunto sul quotidiano, dove si parla di una particolarità che interessa molto le imprese, perché in questo decreto di fine d'anno, in questo decreto anticrisi, c'è anche una norma che dà la possibilità, adesso Meazza mi correggerà subito, dà la possibilità alle imprese di fare i propri bilanci sulla base dei valori, diciamo così, storici in cui sono messe in evidenza il valore delle partecipazioni. Ora sappiamo che le borse valori hanno perso notevolmente quota, oltre il 50% in media nell'ultimo anno, e quindi le partecipazioni delle imprese hanno nominalmente, se dovessero venire realizzate in questo momento, hanno nominalmente un valore molto inferiore dei costi storici, dei costi a cui sono state appunto acquisite da parte delle imprese. Questo pone appunto le imprese sotto un particolare aspetto, sotto una particolare difficoltà, perché questi costi poi si spera, almeno nei prossimi mesi, questi valori possono tornare a salire. Ma ecco, nel decreto poi ci sono tanti altri provvedimenti. Quelli su cui si discute più in questi giorni sono l'aumento dell'IVA sulle TV a pagamento, che ha provocato una fortissima polemica anche politica, con una presa di posizione molto forte dello stesso Presidente del Consiglio, che ha attaccato i giornali che hanno criticato questo provvedimento, e quello sul 55%, il cosiddetto 55%, che è l'agevolazione che era prevista per i lavori di risanamento ambientale, di risparmio energetico, e che questo decreto limita fortemente e impone delle procedure particolari. Allora, mentre ricordo gli ascoltatori, l'800 24 00 24 per le vostre domande su questi temi, io inizierei con Meazza, perché ci spieghi questo problema dei bilanci delle imprese, che è appunto il tema dell'editoriale del Sole 24 Ore di oggi. Mauro Meazza. Sì, come hai detto tu, si tratta di un problema di leggibilità e di affidabilità, cioè il momento è grave, il momento è di emergenza, si rischia di avere dei conti fortemente condizionati dal cattivo andamento dei listini. Allora, prima a livello comunitario, a livello UE, è stata presa una decisione per poter derogare un pochino da alcuni criteri contabili. Adesso, con il decreto legge, l'Italia ha fatto un passo un po' più deciso, e praticamente consente alle imprese non quotate in borsa di utilizzare con una certa libertà valori della fine del 2007 o della prima semestrale del 2008. Questo, diciamo, ha due chiavi di lettura, due effetti evidenti. Il primo è che possiamo limitare in qualche modo i danni, e questo è sicuramente una buona notizia. L'altro però è che la comparabilità dei bilanci tra imprese non quotate e quotate, e tra le stesse imprese non quotate che possono fare scelte differenti, va un pochino smarrita. E questo non è mai un buon aspetto, perché in qualche modo mette in difficoltà chi deve poi controllare questi bilanci, le società di revisione, gli stessi collegi sindacali e così via. Ecco, mette un po' in difficoltà la trasparenza del mercato, potremmo dire, però dal punto di vista delle imprese, mettiamoci nei panni di una piccola impresa, di una media impresa che può fare il bilancio evidenziando appunto dei valori storici per le proprie partecipazioni, questo vuol dire poter avere anche un valore patrimoniale maggiore, quindi poter avere una maggiore possibilità di trattare per esempio con gli istituti di credito i propri affidamenti, quello che è la normale trattativa appunto con le banche. Quindi è una misura che in fondo dà un maggiore respiro, un maggiore ossigeno alla realtà aziendale delle imprese, e le mette in condizioni quindi di operare meglio con maggiori potenzialità per i prossimi mesi. Sì, assolutamente. Questa è una misura che consente, dovrebbe consentire perlomeno di subire meno gli effetti dei cosiddetti rating di Basilea 2, cioè questi meccanismi di valutazione in base ai quali le banche erogano il credito alle imprese. In questo senso non è da criticare, anzi può essere una misura assolutamente utile. Quello che lascia più perplessi è invece in linea di principio il fatto di andare a toccare un quadro di regole che dovrebbe essere, appunto perché è un quadro di regole, il più possibile stabile, il più possibile uniforme da un esercizio, da un anno con l'altro, altrimenti si rischia veramente di smarrire il senso della confrontabilità. Ripeto, la confrontabilità non è poi un valore astratto, confrontabilità significa anche lo scambio di partecipazioni, la contendibilità delle imprese, la loro appetibilità sui mercati nazionali e anche internazionali. Ecco, però considerando che il momento, anche sotto il profilo finanziario, il profilo delle borse valori, può essere considerato un momento eccezionale, proprio questa misura risponde ai requisiti di necessità e urgenza che dovrebbero valere per ogni decreto legge, e questo è un decreto legge varato dal governo. Quindi in questo particolare settore, per questa particolare cosa, i requisiti di necessità e urgenza ci sono. Diciamo che è una misura dettata da molto pragmatismo. L'idea di intervenire con decreto legge sul sistema dei principi contabili, ci fa toccare con mano in qualche modo quanto la situazione sia grave, perché se abbiamo bisogno appunto di correggere i criteri di misurazione con un provvedimento d'urgenza, questo significa che stavamo veramente in una condizione molto difficile. Peraltro siamo in dicembre, i bilanci si stanno chiudendo in questo periodo, forse aspettare l'iter parlamentare di un provvedimento normale sarebbe stato sicuramente temerario. Ma questo anche per dire che forse per altri provvedimenti la necessità e l'urgenza è meno evidente, non tanto per l'IVA sulle pay TV, ma anche per questo famoso 55%. Abbiamo un ascoltatore, Dino da Ferrara, mi pare che voglia parlare del 55%. Buongiorno. Buongiorno a lei, la ringrazio per avermi dato la possibilità di intervenire. Ascolti, niente, io nonché ho anche una ditta installatrice, quindi faccio impianti solari e quant'altro, e ascoltando negli ultimi giorni proprio l'intervento che dovrebbe essere fatto con la nuova finanziaria per il blocco o addirittura l'eliminazione del 55%, mi sembra inappropriato. Ferma l'economia, non è un rilancio dell'economia, non ci dà modo più di lavorare, e poi vorrei capire anche perché questo decreto dovrebbe essere retroattivo, quindi bloccare tutto quello che è stato già fatto a scapito degli utenti, di noi stessi e di quant'altro. Quindi mi sembra eccessivo alla misura che non è da fare. Magari dica. La ringrazio, sì, la ringrazio della domanda. Lei sottolinea appunto i due elementi di critica forte sul 55%, la retroattività del provvedimento e il fatto che con questo provvedimento si vengono a limitare fortemente gli incentivi che appunto davano una spinta a fare determinati investimenti e quindi anche una spinta all'economia in generale. Ecco, Mauro Meazza, proprio sulla base di queste critiche è prevedibile che ci possa essere una piccola marcia indietro sul fronte parlamentare? Io me lo auguro, perché è evidente che l'ascoltatore ha ragione, così come hanno colto perfettamente il punto i tanti lettori che ci hanno scritto, ci hanno mandato mail in questi giorni. Intervenire con decreto legge a periodo d'imposta in corso comporta, come sempre, di andare a cambiare le regole anche qui, a partita iniziata, investimenti avviati. E questo decreto legge cambia appunto le regole, alcune volte a favore, gli acconti, la deducibilità dell'IRAP, altre volte a sfavore. Qui per il 55%, come sta emergendo pian piano, è un problema di risorse. Il 55% sarebbe costato quest'anno 1 miliardo più o meno come complesso della detrazione, o poco meno di 1 miliardo. Lo stanziamento nel decreto legge non arriva ai 90 milioni per il 2008 e per il 2009, quindi è evidente che c'era una necessità di ridurre l'erogazione, di risparmiare per l'erario dei fondi. Però in questo modo, in primo luogo, si danneggia chi ha fatto l'investimento contando sui recuperi anche dal punto di vista fiscale, e in secondo luogo si deprimono delle attività che hanno poi delle finalità molto utili, perché sono quelle di risparmiare energia, di produrre talvolta energia o anche di ristrutturare, di riammodernare edifici e imprese in chiave più virtuosa dal punto di vista ambientale. Ecco, ma trattandosi di un provvedimento appunto di agevolazione fiscale, non c'è il rischio che si annulli proprio la base imponibile a questo punto, cioè che addirittura quello che il governo si attendeva non era tanto una spesa quanto un minore introito, che il minore introito sia ancora inferiore, perché bloccando e limitando fortemente le agevolazioni c'è il rischio che si fermi proprio tutta questo settore. Sì, e soprattutto vorrei dire, riferisco alcune segnalazioni che sono arrivate dai lettori. Qualcuno ci ha detto, a sapere che andava a finire così, quasi quasi accettavo l'offerta del nero. Cioè c'è un effetto di queste agevolazioni che è connesso alla necessità di far emergere tutta una serie di lavori, specialmente nell'edilizia, che altrimenti hanno la forte tentazione di non essere tutti dichiarati, e è una considerazione che bisogna tenere presente su questo tipo di interventi, perché qui davvero possiamo poi spingere a non dichiarare, quindi di nuovo con i problemi poi del sommerso, dell'evasione che conosciamo molto bene e che questo tipo di incentivi cerca di scongiurare. Sì, infatti, perché questi incentivi possono essere ottenuti solo se c'è una regolare fattura, una regolare denuncia, un regolare intervento, e quindi hanno anche aiutato, soprattutto in settori come quello dell'edilizia, in cui il sommerso è abbastanza diffuso, ad emergere questa economia, appunto, che poi è un'economia di evasione fiscale. Sì. Vorrei dire che c'è la possibilità di avere il 36% per i privati se non riusciranno a prendere il 55%, ma come spieghiamo oggi sul Sole 24 Ore, appunto, questo 36% ha un tetto di limite alla spesa, quindi se la spesa è stata molto consistente, rischia di uscire di un condominio. Il 36% è su 10 anni, mi sembra. E il 36% inoltre si recupera in 10 anni, sì. Siamo con Mauro Meazza, caporedattore del Sole 24 Ore per Norme e Tributi, e ci ha raggiunto anche Alessandro Platerotti, caporedattore per La Finanza. Oggi hanno scritto un editoriale nel prezzo della crisi e la chiarezza dei bilanci. Stiamo parlando dei provvedimenti del governo appunto per affrontare la crisi, provvedimenti che alcuni sono stati accolti molto favorevolmente, complessivamente favorevolmente, per gli aiuti che vengono dati appunto al sostegno dell'economia. Altri hanno provocato forti critiche, quello per l'aumento della l'IVA sulle televisioni a pagamento e quello sul 55%, le riduzioni alle agevolazioni fiscali per gli investimenti nel risanamento ambientale e nel risparmio energetico. Renato da Monza, buongiorno. Buongiorno e complimenti per l'aderenza alla cronaca e al tema. Volevo fare un intervento sul 55%. Io sono ingegnere termotecnico e ho seguito molte aziende private che hanno fatto in quest'anno interventi proprio nell'ottica della razionalizzazione energetica e risparmio energetico. Sto vedendo, al di là di quanto è stato già detto, una sollevazione irosa e bipartisan, devo dire, su tutto l'arco, chiamiamolo parlamentare, di tutti coloro che hanno fatto questi interventi. Secondo me il ministro Tremonti ha sottovalutato quasi da arachiri politico la rabbia di coloro che hanno pianificato interventi soprattutto al nord, visto che sono interventi di risparmio energetico e quindi volti a, per ragioni climatiche ovviamente, a essere particolarmente effettuati proprio nelle regioni del nord. Io mi aspetto che, soprattutto avendo visto alcuni che si sono dichiarati elettori leghisti e quindi tradizionalmente, come dire, orientati verso questo governo, con un'espressione anche abbastanza aspra di disaffezione, anche perché si parla di cifre economicamente non banali, c'è gente che ha fatto anche mutui, gente che si è impegnata per decine di migliaia di euro e conseguentemente questo beneficio vale proporzionalmente decine di migliaia di euro. Quindi secondo me questo provvedimento riceverà talmente tante critiche proprio all'interno della base stessa che ha portato al governo questa coalizione, che sicuramente verrà cassato. Da testimone di quello che succede proprio per strada, cioè la gente veramente questo provvedimento l'ha vissuto molto male, come quasi un tradimento. Grazie mille. Mauro Meazza, c'è possibilità di una revisione parlamentare di questo provvedimento? Beh, naturalmente sì, perché il provvedimento è un decreto legge, quindi è immediatamente operante, però è vero che la prima rilevazione per appunto far certificare gli investimenti del 2008 deve avvenire nei primi mesi del 2009, le Camere possono modificare questa disposizione. È quello che ci auguriamo, perché poi credo che buona parte del risentimento di cui ci parlava l'ascoltatore sia anche dovuto al fatto che questo nasce come provvedimento appunto anticrisi. Qualche ascoltatore lo chiama manovra finanziaria, ma insomma è un provvedimento che dovrebbe essere di rilancio, e un provvedimento di rilancio che contiene invece una forte limitazione proprio agli investimenti, beh, è evidente che genera dei malumori. Grazie, Antonio da Milano. Buongiorno. Dunque, secondo me questo tipo di provvedimento è dannoso non soltanto per le persone che sono state coinvolte, ma anche per l'ottimismo. Voi di Radio 24 state facendo, secondo me, un'ottima campagna di persuasione all'ottimismo, ma io quando sento queste manovre mi domando, ma se lo Stato ha bisogno di fare questo tipo di manovre, i soldi ce li ha o no? E un po' mi preoccupo. Grazie. Sì, sì, la ringrazio della domanda. Indubbiamente bisogna essere ottimisti, perché appunto essere ottimisti aiuta, però certi provvedimenti fanno un po' pensare sul fatto che si voglia andare tutti nella stessa direzione, si voglia marciare appunto all'unanimità verso una soluzione dei problemi. Ecco, indubbiamente si tratta di fare un po' i conti anche con le ristrettezze di bilancio. Lo Stato italiano, lo sappiamo, ha un debito molto alto, però in certi casi un po' di coraggio in più forse non guasterebbe, proprio nel sollecitare e nel dare fiducia verso quanto fa il governo. Un provvedimento che ha un aspetto di retroattività non contribuisce a dare fiducia. Io vorrei coinvolgere Alessandro Patriotti, che ci ha raggiunto con una prospettiva finanziaria. Anche i mercati in questi ultimi giorni non sembrano dare un particolare ottimismo alle persone, però siamo alla fine dell'anno. Qualcuno parla della possibilità di un rally di fine d'anno, qualcuno parla della possibilità di, vabbè, chiudiamo i conti del 2008, il 2009 sarà diverso. Ci sono le condizioni per pensare che siamo un po' alla svolta? Ma più che parlare di svolta, io parlerei sicuramente di un momento importante dell'anno, perché andiamo verso, questo è l'ultimo mese di un anno dove le perdite per gli indici azionari usciranno fra il 30 e il 35%, un po' a livello mondiale. Indubbiamente dicembre potrebbe essere un mese positivo, perché si parla sempre di un rally di Natale, un rally che anticipa un po' la chiusura dell'anno, e soprattutto che poi permette alle grandi società di, e soprattutto alle grandi società di investimento, di ribilanciare il portafoglio, cioè tirare fuori i titoli meno che hanno un dividendo più basso, per scegliere dei titoli che hanno un valore più elevato, e quindi quello che noi in gergo tecnico chiamiamo dividend yield, ovvero rendimento dell'azione, compreso il dividendo. E quindi sicuramente potrebbero esserci delle sorprese positive, ma soprattutto ci si aspetta un nuovo taglio dei tassi di interesse. Questo sicuramente come misura di sostegno dell'economia, e ci si aspetta soprattutto una prima stabilizzazione del sistema bancario dopo l'ondata di svalutazione che ormai sta superando i 500-600 miliardi di dollari. Quindi sotto il profilo finanziario qualche prospettiva positiva ci può essere, invece sotto il profilo dell'economia reale ci sono dei dati e anche delle prospettive negative sull'occupazione. Dobbiamo ancora forse scontare il passaggio di una recessione abbastanza sensibile? Ma io credo che sicuramente anche, hai fatto bene ad accostare i due elementi, economia e finanza, borsa ed economia reale, perché di fatto in questo momento la borsa sta risentendo di una mancanza di visibilità di quelle che saranno le crescita delle imprese, dei profitti aziendali nei prossimi trimestri. Sicuramente il momento stesso in cui si cominceranno ad abbassare le valutazioni sulle attese di profitto, beh, anche la borsa dovrebbe beneficiarne. Per ora le tensioni più grandi dal punto di vista degli operatori del mercato finanziario riguardano naturalmente il settore manifatturiero, che è quello più potenzialmente colpito dalla recessione che ormai è stata dichiarata ufficialmente anche negli Stati Uniti, e che sicuramente lascerà delle tensioni sul mercato. Abbiamo un ultimo ascoltatore, il tempo stringe. Marco da Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Io volevo solo chiedere, riguardo al decreto che permette di registrare quindi nei bilanci 2008 in modo diverso le partecipazioni, se questo, non conoscendo bene il decreto, può essere esteso anche alle fondazioni bancarie o di origini bancarie e i loro bilanci. Vediamo se Mauro Meazza... Ma in linea di massima sì, la norma, come spieghiamo stamane Alessandro ed io, è abbastanza generale, cioè per le società che non sono quotate si prevede la possibilità di utilizzare i valori o dell'ultima semestrale o del bilancio del 2007, quindi non dovrebbero esserci limiti in questo utilizzo. Naturalmente rimangono poi la sorveglianza del codice civile e l'attenzione degli amministratori e dei compilatori del bilancio, dei controllori. In questo senso però, Alessandro Platerotti, le banche, il sistema finanziario, qualche problema in più a chiudere i bilanci in questa fine anno probabilmente ce l'hanno. Ma sicuramente non saranno dei bilanci brillanti, non sono dei bilanci che risentono della perdita di valore delle attività di molte attività delle banche, ci sono sicuramente, subiranno il contraccolpo della frenata delle fusioni e delle acquisizioni, della frenata del mercato sui capitali. Sicuramente però, per tornare alla domanda dell'ascoltatore sull'aspetto delle fondazioni, beh, quello è chiave in questo senso, perché le fondazioni sono i principali custodi delle azioni delle banche. Visto che la perdita di valore maggiore sul mercato azionario l'hanno subita proprio le banche, probabilmente le fondazioni saranno le prime a ricorrere a questa scappatoia contabile. Ecco, con la speranza appunto che i costi storici poi si possano diventare anche dei costi storici futuri, cioè che il costo a cui vengono imputate queste partecipazioni possa poi tornare ad essere quello che è stato in passato, con una ripresa dell'attività economica, con una ripresa dell'attività anche sul fronte dei mercati finanziari. Io ringrazio Mauro Meazza e Alessandro Paterotti, che ci hanno tenuto compagnia, caporedattori per le norme e per la finanza del Sole 24 Ore. Ricordo che Dietro la Notizia torna domani. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Filippo Reggi di regia, appunto, l'appuntamento è per domani.